sono Barbara e questo è Yogurt Acid Care e questa è l'ultima puntata di questa serie dedicata a questo secondo lockdown che stiamo affrontando. L'episodio va in onda in maniera straordinaria di sera. Chiudiamo con un recap degli ultimi sei mantra che abbiamo affrontato. Questa serie di episodi viene da una necessità sia interna che esterna di condividere tutto questo disagio che stiamo vivendo, tutte anime in zona rossa, arancione o quello che è. Io non sono una teorica della disciplina, ma sono una praticante devota e insegnante di yoga. Yogurt Acid Care è il mio progetto che prevede una visione molto molto fluida ed estensiva della disciplina yoga come cura radicale dell'individuo applicata in un contesto non bucolico né idilliaco. Queste 14 puntate sono andate live alle 10. Ogni mattina l'idea era quella di condividere con voi una serie di mantra, di spunti, di riflessione che aiutano me a sollevarmi, a settare la mia attitudine nei confronti della mia vita, ma anche in maniera molto più semplice e gestibile nei confronti della mia giornata. Con un mood molto più energetico, energico, energetico, non so, la mia testa è a metà tra inglese e italiano. Perdonate le cose che dico. Se siete dei grammar stubborn, vi darà fastidio il mio modo di parlare. Ma andiamo avanti in live, quindi sbaglierò ancora. Ho selezionato questa serie di mantra che avevano per me un significato molto adatto alla situazione in cui ci troviamo e ho parlato anche dei sette switches for happiness, i sette interruttori secondo Deepak Chopra per la felicità. Ieri abbiamo visto i primi sei mantra, un po' in un recap. Oggi vediamo gli ultimi sei. Durante il settimo episodio abbiamo parlato di questo mantra che si pronuncia Om Bhavam Namaha, che letteralmente si traduce come Io sono l'esistenza assoluta ed è un invito a superare tutti quei desideri, tutti quei sentimenti estremi, tipo gioia, amore e odio, ed è connesso al Crown Chakra. Ci invita a diventare neutri e a vivere di pura consapevolezza. In questo momento questo mantra aiuta a lasciare andare tutte quelle cose che desideriamo fare o avere e la situazione non ci permette di soddisfare. L'ottavo episodio invece era su Om Vardhanam Namaha. Sono costrutti simili. Om Bhavam Namaha e poi Om Vardhanam Namaha, che significa io nutro, mi prendo cura dell'universo. l'universo si prende cura di me, il che rimanda a un'idea di solidarietà e supporto reciproco che trovo fondamentale in questo periodo. Se vogliamo ricevere, dobbiamo essere disposti a dare, se vogliamo ricevere una cosa specifica, un'emozione specifica o un'attitudine, un atteggiamento specifici, dobbiamo essere pronti a dare la stessa cosa. Quindi un invito a condividere e a diffondere l'energia che vorremmo ricevere. Quindi vorresti ricevere gentilezza? Spargi gentilezza. Il nono episodio era Om Shrim Shriye Namaha ed è il mantra dedicato a Lakshmi, la dea del benessere, della bellezza, della fertilità e abbondanza. È un invito per attirare questa tipologia di energia. Lakshmi è connessa a un'energia di tipo femminile che si pronuncia Shakti e Shrim è il bija mantra della dea. Dovrebbe riverberare all'altezza del root chakra, quindi sotto l'ombelico, all'altezza del pavimento pelvico. Il decimo episodio era su un mantra buddista, cinese taoista, è legato al Heart Sutra, che i sutra sono una tipologia diversa. Ci sono lo Yoga Sutra, il Kama Sutra, una serie di scritti dedicati a diverse materie. Questo è il Heart Sutra, quindi il Sutra del cuore. E il mantra faceva Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Shvaha. Lo ripeto, è un po' complesso. Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Shvaha, il che significa che lasciamo andare tutte le sofferenze alla ricerca di una liberazione, di una dimenticanza di quelle sofferenze vissute, per superare il dualismo in non dualismo. Io lascio andare tutte quelle sofferenze e con me invito tutti quanti a lasciare andare queste sofferenze per affrontare una luce che proviene dall'interno, un risveglio interno che porta alla gioia pura. Gate gate paragate parasam gate bodhi svaha. Il penultimo mantra affrontato nell'episodio 11 era dedicato alla divinità Ganesha, l'elefantino simpaticissimo che è colui che rimuove gli ostacoli e quindi questo mantra era una preghiera nel senso più ampio possibile, accettate questo termine, nei confronti del Dio per far sì che ci aiuti a rimuovere gli ostacoli della nostra esistenza. Om Gam Ganapataye Namaha. Gam come Shrim era il bija mantra di Lakshmi, Gam è il bija mantra di Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Episodio 12, ultimo di questa serie, ha affrontato un mantra molto potente, molto utilizzato, addirittura utilizzato all'inizio di qualsiasi altro rito, ed è Loka Samasta Sukhinho Bhavantu. Ci sono un sacco di cose dedicate a questo mantra, lo trovate anche in forma grafica, lo trovate anche in un sacco di canzoni. Significa, è un invito, è una preghiera affinché tutti gli individui, tutti gli esseri viventi in ogni luogo possano essere felici e liberi e possano anche i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni, le contribuire in qualche modo alla felicità e libertà per tutti. Il mio interesse personale non vale niente se danneggia l'interesse, la libertà e la gioia delle persone e delle cose e di tutto ciò che mi circonda. La nostra relazione con gli individui dovrebbe essere perlomeno reciprocamente benefica. Se noi desideriamo per noi stesse felicità e liberazione dalla sofferenza, non possiamo eludere un pensiero collettivo. Non esiste la vera felicità, o comunque una felicità che duri, che viene dall'aver causato delle sofferenze o infelicità alle altre anime. Non esiste. Per questo dobbiamo iniziare a riflettere in maniera plurale. Non siamo molto abituati, è più comodo per la società se pensiamo in maniera egoistica e individuale. Ma se vogliamo una vera gioia, dobbiamo essere disposte a pensare alle conseguenze di ogni nostro pensiero, gesto e azione, dai più complessi ai più semplici. Consapevolezza. Lokha samasta sukhin ho bhavantu. Lokha samasta sukhin ho bhavantu. Vi lascio qualche minuto di raga, che è la musica classica indiana. Procediamo verso una piccola pratica serale. Ognuna di voi è libera di scegliere un mantra, li ripeterò di nuovo tutti, o di alternarne un paio, o addirittura tre. Vi ricordo che i mantra sono stati definiti cibo per la nostra mente e per la nostra anima, e si dice che abbiano una connessione diretta con l'anima. Ogni mantra ha un valore sonoro e simbolico. L'associazione delle sillabe e delle parole crea dei riverberi diversissimi, che hanno delle connessioni con la nostra mente diverse. Se recitati mentalmente, chiaramente il riverbero è inferiore, ma ci vuole una pratica molto elevata per verbalizzarli a voce alta con un controllo del respiro. Quindi bisogna prima perfezionare le proprie tecniche pranayama. Nessuno vi impedisce di provare. In teoria i mantra dovrebbero ripetersi 108 volte, non andremo a ripetere un mantra 108 volte perché è quasi un'ora di pratica. Diciamo che andremo semplicemente a ripetere quanto basta perché riverberi un pelino nella nostra mente e all'interno dei nostri chakra. Ricordo che lo yoga in generale non è una medicina curativa, ma diciamo che aiuta a rimuovere una serie di blocchi che si creano all'interno di noi stesse. Sicuramente è una medicina preventiva, poi associata a una medicina magari western, perché noi siamo abituati a questa tipologia medica qua, può aiutare anche come yoga terapia. I mantra di oggi sono Om Bhavam Namaha. Io sono l'esistenza assoluta. Om Bhavam Namaha. Poi abbiamo Om Vardhanam Namaha. Io nutro l'universo, l'universo nutre me. Om Shrim Shriye Namaha. Un'invocazione alla Dea Lakshmi perché ci apra la strada verso più bellezza, benessere e abbondanza, perché risvegli l'energia creativa Shakti che risiede in noi. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha. Sono andate via tutte le mie sofferenze. Tutti andiamo via da queste sofferenze e cerchiamo la gioia pura. Om Ganapataye Namaha. Mi arrendo a te, Ganesha, Signore di tutti gli esseri e colui che rimuove gli ostacoli e le difficoltà. Lokha Samasta Sukhinho Bhavantu. Possano tutti gli esseri in ogni luogo essere felici e liberi, e possano anche i miei pensieri, le mie parole e le mie azioni contribuire in qualche modo alla felicità e libertà per tutti. Li ripeto tutti quanti. Om Bhavam Namaha. Om Vardhanam Namaha. Om Shrim Shriye Namaha. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha. Om, gam, ganapataye, namaha. Loka, samasta, sukhinho, bhavantu. Scegliamo uno, due o tre massimo di questi mantra e prepariamoci alla nostra pratica. Troviamo una posizione confortevole sdraiata con la pancia rivolta verso l'alto o seduta con la colonna eretta. Autososteniamoci e non collassiamo per colpa della gravità. Leviamo gli occhiali se abbiamo bisogno degli occhiali da vista e lasciamo il naso libero per questi 10 minuti. Chiudiamo gli occhi e rivolgiamo tutte le nostre attenzioni all'interno. Diventiamo delle testimoni esterne a noi stesse e osserviamo senza giudizio né interazione corpo, respiro e mente. Partiamo dal livello più esterno, il nostro corpo fisico. Ascoltiamolo questo corpo, rivolgiamo i nostri sensi al retro e ascoltiamo il contatto della superficie su cui poggia. Senza giudicare né interagire, non ci muoviamo più, lo lasciamo andare. Abbracciamo queste sensazioni e andiamo ad osservare il respiro, il secondo livello. Osserviamone la durata, la frequenza, l'intensità, il ritmo. Osserviamo come ad ogni espiro il nostro corpo si abbandona pesantissimo verso la superficie che lo sostiene. Rivolgiamo i nostri sensi all'interno e sentiamo ciò che succede all'interno del corpo. Sentiamo i fastidi, il sangue, temperatura, senza muoverlo, osserviamo senza interagire. Rivolgiamo poi i nostri sensi alla parte opposta della nostra testa. Per accedere alla testa la dobbiamo spegnere, quindi andiamo ai piedi. Rivolgo i miei sensi ai piedi. Inspirando sento i piedi ed espirando li rilasso completamente, li lascio andare, non li sento più. Ascolto il retro delle gambe ed espirando lo lascio andare sino ai glutei. E percorro poi con il mio respiro il fronte. Rilasso entrambe le gambe, le sento meno. Rivolgo le mie attenzioni al pube e all'addome. Espiro dopo espiro, rilasso gli organi interni uno a uno. Rilasso anche il diaframma e sento il mio torace. Lascio andare espirando tutte le tensioni dalla cassa toracica, si distendono i polmoni, i bronchi, i bronchioli. Rilasso anche le clavicole e le spalle e rivolgo i miei sensi alla schiena, percorro la mia colonna. Rilasso ogni pezzettino della mia schiena, le vertebre, le scapole, i trapezi e sento il retro delle braccia. Rilasso il retro delle braccia, arrivo alle mani, ascolto le mani dall'interno all'esterno. No judgment. Lascio andare le mani, palmi, dorso, falangi, polsi, percorro le braccia in salita. Lascio andare anche le braccia, non le sento più, non sento più neanche il mio torso. Rivolgo le mie attenzioni al collo e al capo, lascio andare la gola e sento uno a uno i capelli attraverso la nuca, attraverso il cuoio capelluto e li rilasso anche uno a uno. Rivolgo poi i sensi alla superficie del viso e con un espiro lascio andare tutte le tensioni, tempie, zigomi, guance, orecchie, mascella, lascio andare la muscolatura facciale completamente. Ascolto la bocca, percepisco la lingua, le labbra, i denti. Dischiudo i denti e le labbra ed espirando concedo al mio viso di sorridere. Rilasso il naso, sento l'aria entrare e uscire, due velocità, due temperature. Rilasso completamente le vie aeree interne, poi sento e distendo occhi, palpebre, sopracciglia. Lascio andare i movimenti oculari. Infine rivolgo tutti i miei sensi al centro della fronte, al terzo occhio, dove accumuliamo tutte le attività del pensiero. Rilassiamo la nostra mente, lasciamo andare tutte le tensioni della giornata. Appiattiamo queste onde. Riportiamo la calma con qualche espiro più profondo. Osserviamo il corpo dall'interno, il respiro, la mente senza giudicare né interagire. Cerchiamo di assaporare questa connessione e mantenerla durante la pratica dei mantra. Scegliamo uno o più mantra tra Om Bhavam Namaha, Om Vardhanam Namaha, Om Shrim Shriye Namaha, Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisvaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Loka Samasta Sukhinho Bhavantu. Se nessuno di questi mantra viene facile, qualsiasi mantra ci venga in mente va più che bene. Anche un semplicissimo Soham va benissimo. Procediamo pronunciando il mantra mentalmente a voce alta durante l'espiro. A parte Soham che include l'inspiro, tutti gli altri mantra sono durante l'espiro. Cerchiamo di non forzare il mantra né il respiro, ma di adattarli in maniera morbida e delicata, il più possibile tra loro. Se fatichiamo, lasciamo andare il mantra, facciamo qualche respiro più profondo, riportiamo l'attenzione al nostro addome. Ognuno va avanti con il mantra o i mantra scelti. In maniera autonoma, una campanella vi inviterà ad abbandonare e rimantenere la vostra attenzione sull'addome, lasciando andare il mantra. Lasciamo andare il mantra, facciamo qualche respiro più profondo per rilassare il nostro corpo, rilassare la nostra fronte, risvegliare il nostro corpo. Possiamo decidere di proseguire la meditazione in maniera individuale o riconnetterci con il resto della giornata. Questi 14 giorni sono stati molto carini per me, sono stati molto utili in generale. Mantenere certi pensieri saldi nella mia testa ha avuto un riverbero positivo che spero qualcuno di voi avrà percepito. Abbiamo parlato dei 7 switch per la felicità. Settimana scorsa ne ho detto uno al giorno e vi ho invitato a riflettere su questi switch. La seconda settimana li ho ripetuti, invitandovi a riflettere ex post sugli switch. Quello di oggi era perdona. Forgive. Abbiamo perdonato situazioni, persone, cose, noi stesse durante questa settimana. Possiamo ancora farlo, siamo in tempo. Il discorso di lasciare andare tutto ciò che non ci serve è collegatissimo al discorso del perdono. Sono io in primis molto severa con me stessa e quindi probabilmente il nostro essere super critiche nei nostri confronti ha un riverbero sul resto dell'universo. Proviamo a perdonare, lasciamo andare, ma in maniera reale, non in quella maniera in cui diciamo ok, ti perdono, mi perdono, perdono questa situazione, ma poi ci avveleniamo il fegato. Forgive. Questi episodi rimarranno in archivio sia su Radio Virus che sulla mia pagina Mixcloud. Trovate altre cosettine yogurt, altre pillole, sia sul mio Patreon che sul mio Instagram. Trovate tutti i link sul mio Instagram. Mi trovate come Barbara Lamulas, tutto attaccato. Vi ringrazio per la poca fiducia, no, nel senso, vi ringrazio per la fiducia e vi ringrazio per aver dedicato del tempo e delle energie al mio blaterare i miei svarioni. Spero perdoniate tutti questi cavolo di errori che a quest'ora la mia mente è dislessica, non riesco più ad articolare bene la lingua. Vi lascio stare e vi auguro una buona serata, buon venerdì sera e buona giornata domani e buon tutto. Ci sentiamo presto. Ciao.